rapper, popper nella testa, padre della scienza che non sta mai ferma. Dice non cercare il vero per davvero, cerca dove l'errore cade giù dal cielo. Io che faccio il medico e il ricercatore, guardo solo il numero che mi dà valore, quel per value magico meno di 0,5. Se ci arrivo penso che è pubblicabile. Ma quella P che cos'è davvero? È la probabilità che ho sbagliato per davvero. Non che la mia ipotesi sia giusta o sia perfetta, solo che la mia stupidaggine è un po' meno probabile. Galileo sognava un mondo da provare, osservo, ipotizzo, poi vado a sperimentare. Se il dato lo conferma la chiamo verità, ma il 900 ha rotto questa semplicità. Falsificami, non credermi mai, costruisco palafitte sopra i guai. Correzione. Così il verificare non basta più a nessuno. Le teorie non son vere, durano finché ognuna non venga smentita da un dato un po' cattivo. Un cigno nero che spunta all'improvviso. Non esistono cigni neri, dice la teoria. Finché un cigno nero appare e la manda via. Non basta dire non l'ho mai visto qua. Falsificami, non credermi mai, costruisco palafitte sopra i guai, in una palude che non sarà mai, un terreno certo dove dire saprai. Falsificami, distruggi la mia idea, se resta in piedi allora forse reggerà. La scienza non è un tempio di verità, è solo il meglio che abbiamo qui. Tra pazienti e protocolli, a caccia di valori e di grafici e di controlli, cerchiamo solo il numero per poter firmare un paper in più, un impact da esibire al congresso annuale. Ma è davvero scienza o marketing elegante? Lo sponsor, il grant, il nome più importante. Quanti di noi hanno studiato davvero cosa vuol dire errore alfa e metodo sincero? Cerchiamo una P da scrivere in tabella e ci dimentichiamo la persona, quella vera. Il paziente non è un punto dentro un grafico, ma una storia che non entra in un paragrafo. Ora arrivano big data e l'intelligenza artificiale, radio mica migliaia di variabili in gioco. È normale se provi mille volte, prima o poi qualcosa esce, un'app significativa che però mente. Bonferroni stringe il filtro, abbassa la soglia, la pay diventa minuscola, non passa quasi nulla. Allora usiamo le AI per scegliere le variabili, ma rischiamo di diventare tacchini imprevedibili. Ogni giorno il tacchino vede cibo nella mangiatoia e pensa l'uomo è buono, questa è la mia storia. Ma arriva poi il giorno che nessuno gli spiegò e la sua induzione perfetta si spezzò. Non voglio essere il tacchino induttivista, no, che scambia l'abitudine per un assioma d'oro. La realtà non è un algoritmo che ti salverà se dimentichi il dubbio e il pensiero critico che hai. Falsificami, non credermi mai, costruisco palafitte solo.